Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, anche oggi vi anticipo, il programma terminerà alle 18, vi sarà lo speciale infatti di Radio 24 dedicato al terremoto dalle 18 alle 18.30 e poi anche oggi tra i temi del programma avremo la situazione economica in Abruzzo per quello che riguarda l'impatto, ahimè, devastante del terremoto anche sul sistema produttivo abruzzese. La cronaca dei mercati la faremo come sempre, più 2,3% in Mibtel, più 2,8% S&P Mib, vanno bene oggi tutte le borse europee, va detto, e anche Parigi più 2%, Francoforte più 3,20%, Londra più 1,5%, l'America più 2,3%, e il 3% quasi di rialzo sul Nasdaq. L'euro è a quota 1,32 ed è a 89 centesimi, 90 centesimi nei confronti della 90 pence nei confronti della sterlina. I titoli che vanno bene, di nuovo Autogrill più 9,2, STMicroelectronics più 7,8, Bulgari più 6,9, Tenaris più 5,8, Buzzi Unicem più 5,6, Pirelli più 5, come Intesa il 4,5 guadagna Mediobanca, ma anche Unicredit Automatica, il 3,90 il rialzo di Atlantia e delle Generali, il 3,5 quello di Luxottica, della Popolare di Milano e del Monte dei Paschi, ma anche di Mediaset ancora tra i rialzi, UbiBanca più 3,4, Alleanza più 3,3, Italcementi più 2,90, Telecom perde l'1, Terna lo 0,6, la Campari il 0,5% di calo. I temi di questa puntata, dicevo, oltre alla situazione in Abruzzo e le prime ricognizioni sui danni al sistema produttivo, avremo anche un approfondimento sul dato diffuso oggi dall'Istat, la produzione industriale a febbraio. Allora, il dato è visto così terribile, meno 24% quasi, il peggior dato da quando esiste la statistica sulla produzione industriale, quindi dal 1990. Non possiamo sapere se poi vi fosse un dato precedente, perché non c'era la statistica sulla produzione industriale. Però lo dico non per creare così, per vedere il bicchiere mezzo pieno, ma perché la cosa più importante è il dato mese su mese, perché sapevamo tutti che febbraio sarebbe stato un mese molto pesante. Febbraio su gennaio un meno 3,3. Vedremo poi di parlarne con il Centro Studi di Confindustria per capire se marzo, quando già ci dovrebbe essere un effetto degli incentivi auto, gli ecoincentivi auto, a febbraio invece ancora non c'era e il crollo del settore auto è pesantissimo, quasi il 40%, se a marzo, non tanto rispetto a marzo del 2008, dove con ogni probabilità il dato sarà ancora molto molto brutto, ma rispetto a febbraio del 2009, cioè mese su mese, se qualcosa si stia muovendo, quindi se perlomeno questa recessione e crisi economica stia rallentando nella sua intensità. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Al di là dei titoli, veniamo ai dati economici e appunto alla narrazione di questa crisi. Perché? Perché se il petrolio è aperto a $51,3, quindi in netto rialzo, l'Unione Petrolifera però ha fatto notare come anche a marzo i consumi petroliferi siano scesi di quasi il 5%. Tiene invece il diesel, nel senso che il diesel ha avuto un andamento dello 0,9% positivo, ma comunque rispetto al calo della benzina che è un meno 3,2, come consumi e non come prezzi. Già questa mattina bene era andata a Tokyo, ha fatto più 3,7% l'indice Nikkei dopo l'imponente manovra, ulteriore manovra di stimolo all'economia decisa dal governo, oltre 110 miliardi di euro, e dati migliori delle attese sulle ordinazioni macchinari a febbraio, un punto e mezzo percentuale di rialzo. E non è male in questo periodo, così come ricordo che due giorni fa abbiamo avuto un dato sulle esportazioni tedesche calate molto molto poco a marzo rispetto ai cali pesanti a due cifre dei mesi precedenti, meno 0,7%. E visto che stavamo parlando di Germania, diamo anche la notizia della prima nazionalizzazione di una banca in Germania. Lo Stato tedesco infatti ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto su Ipo Real Estate a 1,39 euro. Lo Stato tedesco già aveva il 9% di Ipo Real Estate e la banca aveva già ricevuto come garanzia dallo Stato qualcosa come 102 miliardi di euro. Praticamente ha offerto appunto a 1,39 euro, è la prima nazionalizzazione di una banca in Germania dal 1930. Però in America la Wells Fargo, la banca americana che è specializzata anche nei trasferimenti di denaro, ha previsto un utile record nel 2009, anzi all'inizio 3 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2009, e anche questa è sicuramente una notizia. Poi c'è un altro dato positivo, ecco perché le borse si muovono così. In America le richieste di sussidio alla disoccupazione sono scese la settimana scorsa di 20.000 unità e in maniera molto migliore rispetto anche alla tesi degli analisti, sono scese a 654.000, mentre il deficit commerciale americano si è ulteriormente ridotto. Anche qui le attese si aspettavano erano di un passivo, di un deficit commerciale invariato a 36 miliardi, invece è sceso a 26 miliardi, meno 28%. Però la Banca Centrale Europea fa notare che l'economia mondiale è ancora in forte rallentamento, la graduale ripresa arriverà solo nel 2010, si legge oggi dal bollettino della Banca Centrale Europea, che insiste: a metà del 2009 l'inflazione sarà negativa. L'aveva già detto Trichet nell'ultima riunione dove si è deciso il taglio dei tassi di interesse, ma dicevo riunione e bollettino di oggi, meno 2% in qualche modo verso metà anno, e poi dovrebbe tornare a crescere anche l'inflazione nella seconda parte dell'anno in poi. La Banca Centrale Europea però fa anche notare che i prestiti alle famiglie e alle imprese restano molto contenute, cioè il flusso dei crediti bancari alle imprese e famiglie anche negli ultimi mesi in Europa è rimasto molto contenuto, e la Banca Centrale Europea parla esplicitamente di una contrazione dei prestiti a breve termine che può aver risentito non solo del ciclo economico negativo, cioè se uno produce meno ha bisogno anche di meno prestiti, ma anche di un deterioramento, come lo chiama, dell'offerta, cioè le banche che hanno stretto sull'offerta di denaro. Chiudiamo con la Germania, produzione industriale a febbraio meno 2,9% e aveva fatto meno 6 a gennaio, su base anno è un meno 20%, diciamo dell'Italia meno 23,7%, la peggiore dagli anni 90 da quando esiste la serie storica, ma sarà importante, ripeto, vedere mese su mese. E adesso passiamo al primo tema, che poi da quando purtroppo c'è stata la tragedia abruzzese è sempre il solito, mi riferisco all'impatto, alle conseguenze del terremoto, non solo sulle vite umane, sulle storie familiari, anche purtroppo sulla parte economica, sul tessuto produttivo dell'Abruzzo. Ieri abbiamo avuto ospite il direttore generale della Confindustria abruzzese, che ci ha fatto capire come il terremoto si sia collocato in un'area già depressa precedentemente, forse l'area più depressa di tutto l'Abruzzo, con 3.500 cassi integrati già previsti e già presenti, a cui adesso si sommano anche tutti i danni e l'impossibilità di operare in maniera normale in tutta l'area. Ne parliamo allora con uno degli inviati del Sole 24 Ore in Abruzzo, Jacopo Giliberto. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Tu già oggi hai scritto su Sole 24 Ore, insomma, i danneggiate sarebbero il 50% delle aziende e oltre 25.000 lavoratori fermi, 1.500 attività chiuse. Da dove arrivano questi dati e se ne hai anche di nuovi? No, di nuovi purtroppo non ce ne sono, vorrei dare dei dati confortanti. C'è stata in questi giorni una serie di riunioni tra le varie organizzazioni degli imprenditori che hanno cominciato insieme con i sindacati, hanno cominciato a fare un po' di conti. Le aziende sono tutte sostanzialmente a porte chiuse nella zona dell'Aquila e nelle cittadine che circondano il capoluogo. I negozi sono fermi con le serrande abbassate, i bar sono chiusi, i ristoranti lavorano a mezzo servizio, le fabbriche sono sostanzialmente ferme. Bisogna tenere presente che gran parte delle case, non solamente quelle crollate, gli edifici sono effettivamente crollati per cui l'attività si è fermata, ma gran parte degli edifici che hanno avuto delle lesioni anche in apparenza non serie non sono accessibili, cioè per poter entrare serve un permesso speciale e così via. Quindi perché ci sono calcinacci, c'è il rischio di altri crolli, ci sono oggetti pencolanti e così via. Quindi i dipendenti non possono entrare, vado dal dipendente dalla cassiera del bar o dal praticante dello studio legale, ma arriviamo fino alle grandi fabbriche che non possono entrare perché oggettivamente è vietato in questo momento, finché non è stato fatto il censimento degli spazi accessibili e degli spazi invece inaccessibili. Certo, tra l'altro con una leggera differenza, che il libero professionista, per carità, può anche in qualche modo prendersi un periodo di sospensione forzato, obbligato. Con la fabbrica, Jacopo, si pone il problema degli ordinativi, delle scorte, degli approvvigionamenti. Cioè, di solito un'impresa quando produce deve garantire un flusso continuo, no? Del bene prodotto, qualunque esso sia. È un po' più flessibile magari il libero professionista nel poter partecipare a alcune attività economiche di quanto non sia l'impresa manifatturiera. Ma dipende molto anche dal... Un libero professionista può avere meno, abbiamo uno studio di geometri, potrebbe avere meno flessibilità su un altro fronte, cioè quello finanziario. Certo. Mentre una grande azienda può avere quell'attimo di flessibilità dal punto di vista economico. L'altro giorno avevo sentito la Dompec, una grande casa farmaceutica. Sì, certo. Non bisognerebbe fare nomi di prodotti, ma per intenderci, all'Aquila vengono prodotti Loki, che per intenderci, contro il mal di testa, e il Fluifort. E loro andavano sostanzialmente di magazzino di scorte, non potevano produrre. Chiaro, tu dici, ci sono anche però altri vantaggi. Avere un magazzino, per esempio, ti permette di reggere qualche giorno. Sentiamo le misure. Intanto ringrazio per averci aggiunto in collegamento anche il direttore degli artigiani della CNA abruzzese, Graziano Di Costanzo. Buonasera. Buonasera. Ieri abbiamo avuto appunto il direttore generale della Confindustria, quindi le imprese manifatturiere. Adesso parliamo con gli artigiani, quindi con dimensioni tendenzialmente un po' più piccole. Prima di tutto però le iniziative prese in Consiglio dei Ministri, sospese tra l'altro il pagamento dei mutui, delle bollette per i cittadini coinvolti dal sisma. Il decreto Abruzzo, come si chiamerà, sarà varato dopo Pasqua e il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto di aver messo a disposizione altri 70 milioni di euro da sommarsi ai 30 decisi, che porteranno a 100 milioni la cifra a disposizione della Protezione Civile per le prime necessità. È in preparazione ormai il decreto Abruzzo, che vareremo dopo Pasqua, quando avremo contezza di tutte le necessità. In attesa del decreto ho firmato oggi un'altra ordinanza di protezione civile, è la seconda ordinanza, quella che fa seguito all'ordinanza firmata il giorno stesso dell'evento del 6 aprile, con quell'ordinanza avevamo proclamato lo stato di emergenza. Queste due ordinanze nel loro insieme prevedono una serie di misure che sono già immediatamente in applicazione. Abbiamo sospeso tutti i termini per i pagamenti fiscali, per i pagamenti contributivi. Per i lavoratori autonomi abbiamo sospeso tutti i pagamenti previdenziali e assistenziali. Abbiamo previsto la rinegoziazione dei mutui contratti con le banche, in base al fatto che è stato ritenuto causa di forza maggiore la evenienza del terremoto. Abbiamo poi previsto che i farmacisti possano consegnare i medicinali a carico del servizio sanitario senza nessuna formalità. Sono stati sospesi tutti i termini di pagamento delle bollette varie per fornitura di energia elettrica e di gas e abbiamo contemporaneamente autorizzato il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad una variazione di bilancio che consente di mettere da subito a disposizione della Protezione Civile un'ulteriore somma di 70 milioni che, sommati ai 30 milioni già stanziati il 6 aprile, portano a 100 milioni le cifre messe a disposizione della Protezione Civile per le prime necessità. Così il Presidente del Consiglio Berlusconi. Allora, direttore degli artigiani abruzzesi, Graziano Di Costanzo, questi soldi arriveranno. Le vostre esigenze in questo momento più impellenti, e anche qui un bilancio dell'andamento dell'attività economica delle imprese artigiane, che ripeto sono tendenzialmente di piccolissime dimensioni. Sì, siamo microimprese, tenga conto che in Abruzzo noi abbiamo, e lo stesso vale per la provincia dell'Aquila, un 2,3 addetti per ogni azienda, ne abbiamo circa 8.000 in tutta la provincia dell'Aquila e circa 3.000 nel comprensorio aquilano. Queste sono un po' le dimensioni dell'artigianato nell'area colpita e in Abruzzo. Da noi l'artigianato ha un ruolo importante perché contribuiamo per quasi il 12% alla ricchezza della regione e per quasi il 17% all'occupazione complessiva. Per darle un'idea, l'industria contribuisce intorno al 19-20%, quindi rappresentiamo una componente importante dell'occupazione di questa regione e in questo caso, quindi, insomma, essendo colpite pesantemente queste piccole attività, quindi naturalmente ci sarà un contraccolpo molto forte, molto negativo sulla parte diciamo economica, quindi per quanto riguarda questo mondo. Io ascoltavo prima le cifre che vengono date. Allora, noi sinceramente stiamo facendo un censimento innanzitutto, perché io credo che sia un po' complicato dare cifre su mondi che rappresentano tutte questa varietà di imprese che le dicevo. Cioè, sulle grandi aziende è più facile, anch'io conosco la Dompè e altre aziende, ma lì ne sono poche che occupano molte dipendenti. Quando dobbiamo ragionare, come le dicevo, sull'area aquilana di 2.500-3.000 imprese, 3.000 attività, diventa più complicato censire chi e in quale dimensione ha avuto dei danni. Allora noi abbiamo fatto una prima cosa che ci sembrava fondamentale, quella di mettere a disposizione della CNA dell'Aquila, perché lì nessuna associazione, almeno che mi risulti, io ieri sono stato tutto il giorno all'Aquila, ha a disposizione uffici agibili. Certo. Quindi noi ieri abbiamo portato un camper attrezzato ad ufficio che abbiamo posizionato proprio immediatamente fuori dell'Aquila in un centro commerciale che si chiama Meridiana, dove la CNA da ieri a oggi, oggi mi sono tenuto in contatto con il nostro direttore lì, hanno ricevuto parecchie decine di imprese che intanto noi facciamo un primo censimento per capire effettivamente quali danni hanno subito, anche per fare da punto di informazione, perché queste misure che lei, che il Presidente del Consiglio annunciava, e poi in qualche modo gli ammortizzatori sociali e i lavoratori autonomi, come verranno dati, in quale misura, come saranno fruibili, gli ammortizzatori sociali, gli ammortizzatori per i lavoratori delle imprese artigiane che normalmente non ne hanno diritto, come verranno fruiti, come verranno dati, cioè noi vogliamo fare un punto specifico per le imprese, capire e informare, questo è intanto immediatamente il nostro obiettivo. E un'iniziativa che già ieri ricordavano anche altri suoi corregionali, per esempio penso al punto di informazione che si sta cercando di creare, una tenda vera e propria per le imprese, un punto, diciamo, info imprese, perché il problema che avete voi ce l'ha anche la Confindustria, cioè mancano le sedi fisiche per dare poi informazioni, consulenze e avviare anche una ricognizione più attenta e dettagliata sul territorio. Grazie a Jacopo Giliberto da un lato e a Graziano Di Costanzo, appunto direttore della CNA abruzzese. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, vedo un messaggio che mi fa piacere, lo prendo per vero. Scrivono da Prato, scrive da Prato un ascoltatore, dice: a Prato stanno tornando gli ordini. Ci fa particolarmente piacere, perché è chiaro che sono questi i segnali, i primi segnali che il fondo forse è stato toccato quanto a drammaticità della crisi economica. Ed è chiaro, così anticipo il primo tema della seconda mezz'ora, che i dati che la statistica ci fornisce adesso, e mi riferisco oggi alla produzione industriale Istat, sono dati con lo specchietto retrovisore, perché quando uno vede meno 23,7%, peggior dato dal 1990, da quando esiste la statistica, si capisce la proporzione di questa crisi, meno 23,7 rispetto appunto a febbraio del 2008. Attenzione, non c'erano dentro ancora gli effetti degli ecoincentivi auto, che invece a marzo si sono visti nelle immatricolazioni. Infatti il dato peggiore è appunto il meno 42% del settore auto, che in due mesi, gennaio e febbraio, ha fatto un meno 48,4%. E attenzione, perché la cosa più interessante sarà il mese su mese. Comunque, questa scheda ci ricorda tutti i dati. Lo scorso febbraio è stata ancora una volta l'auto a subire in maniera particolarmente intensa le conseguenze della crisi. Dagli stabilimenti italiani sono uscite il 42% di vetture in meno rispetto all'anno prima. Le cose dovrebbero cambiare già con i dati di marzo, su cui iniziano a incidere gli effetti degli incentivi, come già evidenziato dalla ripresa delle immatricolazioni. Tra gli altri settori preoccupa il meno 25% della meccanica, che rappresenta la colonna portante del nostro apparato industriale e del nostro export. Flessioni superiori al 20% hanno colpito anche l'elettronica e la chimica. Peggio di tutti ha fatto però la siderurgia, che ha chiuso lo scorso febbraio con un calo produttivo del 34% rispetto all'anno prima. È andata invece un poco meglio per l'abbigliamento e le calzature, meno 9,8%, e per l'industria alimentare, che ha arginato la flessione a un meno 4,9%. Con il dato di febbraio salgono a 10 i mesi consecutivi che si sono chiusi in rosso per la nostra industria. Per ora, ma ricordando che i dati si riferiscono a due mesi fa, non si intravedono segnali di ripresa. Anzi, dal meno 11% di dicembre si è passati al meno 22% di gennaio e al meno 23% di febbraio, ossia il dato peggiore dal 1990. Questi quindi i dati per quello che riguarda i settori. Chiaro è che, lo abbiamo già detto, nessuno si attendeva una produzione industriale buona nel mese di febbraio, a maggior ragione visto che gli incentivi auto non avevano ancora esercitato il loro effetto. Sappiamo che a marzo invece le immatricolazioni sono state leggermente positive, quindi il dato sulla produzione industriale di marzo dovrebbe essere un po' migliore. E certo, avete sentito male anche la siderurgia, meno 34, l'elettronica meno 11, meccanica meno 25, la chimica meno 23%. Per capire se a marzo potrebbe, non è detto, arrivare qualche elemento migliore rispetto appunto a questa produzione industriale, che è il dato peggiore da quando esiste la serie storica, ossia dal 1990, ci colleghiamo col direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora Luca, ti do del tu perché chiaramente sei un collega e sei stato ospite anche nel passato in questa trasmissione, prima ancora di assumere il ruolo che hai adesso. C'è molta attesa per capire se a marzo, aprile, ma soprattutto marzo, visto che aprile è appena iniziato, potrà iniziare a vedersi qualche segnale di miglioramento. La borsa anche oggi è positiva, in borsa diciamo la parte solo discendente, solo di vendite, di crolli è da qualche settimana terminata, vediamo più che altro lo sali scendi, non solo un calo. Le vostre stime su marzo? Ma a marzo prevediamo un'ulteriore flessione di 2,2 punti percentuali rispetto a febbraio. Va detto che Il dato di febbraio non ci ha sorpreso perché pensavamo che quella flessione fatta a gennaio di un meno 0,8 fosse viziata da problemi statistici dovuti al calendario lavorativo e quindi ci attendevamo una nuova caduta forte a febbraio, che c'è stata, e questa caduta però non si replica appunto a marzo, c'è un'attenuazione del ritmo di discesa. Vediamo, se vediamo la sequenza, meno 3,7 a novembre, meno 4,3 a dicembre, se facciamo la media appunto tra gennaio e febbraio, proprio per le cose che dicevo poco fa, siamo intorno a un meno 2,4, a marzo siamo a meno 2,2, quindi si sta appunto attenuando questa caduta. Aprile sarà di nuovo un mese viziato da problemi di calendario perché c'era di mezzo la Pasqua, e poi cominceremo probabilmente a vedere un qualche segnale di miglioramento successivamente, anche se gli indicatori anticipatori della fiducia agli ordini ci dicono che grosso modo fino all'estate non ci sarà una vera svolta. Quindi c'è un leggerissimo miglioramento, se ho ben capito, la stima di un meno 20% anche a marzo rispetto all'anno prima. Però farei attenzione a fare questi confronti sull'anno, perché non ci raccontano una storia di 12 mesi, esatto, e non ci consentono di cogliere movimenti di miglioramento. Rischiamo di osservare un appesantimento ulteriore dei dati tendenziali anche quando l'economia ha innestato la marcia in avanti, mentre adesso è ancora una marcia indietro. Quindi capisco che dal punto di vista della notizia faccia molto clamore queste variazioni a due cifre, che sicuramente sono dei numeri impressionanti, però se vogliamo osservare correttamente la congiuntura dobbiamo guardare le variazioni mensili, e queste variazioni mensili sono un lievissimo miglioramento, nel senso che il calo è meno pronunciato. Ecco, infatti la variazione mensile a febbraio è stata rispetto a gennaio del meno 3,5, e se ho ben capito quello che tu ci stai comunicando, che a marzo rispetto a febbraio, quindi il mese, non l'anno, mese su mese dovrebbe essere un meno 2,2, quindi rallenta il calo, diciamo, da mese in mese. Esattamente. Però dici fino all'estate difficile vedere una chiara inversione di tendenza? Sì, perché l'andamento degli ordini, che significa produzione futura, è ancora negativo, quindi è ancora di discesa. Questo significa che la produzione dei prossimi mesi non potrà che recepire questo in diminuzione di commesse, soprattutto nel settore dei beni di investimento, perché per esempio nel settore dei beni di consumo durevole, grazie agli incentivi per l'auto, abbiamo già registrato un miglioramento di ordinativi e anche di immatricolazioni già a marzo su febbraio in modo molto significativo. E per concludere, voi invece restate cautamente positivi sul fatto che poi dopo l'estate, quindi nella seconda metà dell'anno, potrà esserci qualche segnale in più? Questa è la nostra previsione. Chiaramente parliamo di una ripresa con grande slancio, anche se potrebbero esserci sorprese positive dovute alla fortissima compressione delle scorte del commercio internazionale, che potrebbero provocare un rimbalzo più forte. Tuttavia noi, per prudenza, come hai detto poco fa, ci manteniamo più su una fase di stabilizzazione con qualche segno positivo nella seconda metà dell'anno. Grazie e buona Pasqua anche a te, grazie al direttore del Centro Studi di Confindustria Luca Paolazzi. Buona Pasqua. E adesso i mercati, quindi attenzione, molto importante questo ragionamento sul mese, su mesi i mercati, dicevo che invece vedono buoni dati arrivare, penso ai sussidi alla disoccupazione dell'America, e infatti l'America non va affatto male, più 2% in questo momento, Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,80%, Francoforte del 3%, Nasdaq più 2,70%, Mibtel più 2,2%, S&P MIB più 2,8%, in recupero Intesa sopra i 2 euro per azione a 2,23 euro, Intesa più 6,80%, Autogrill più 8,2%, come Steamicroelectronics, Bene Bulgari più 6,5%, Tenaris più 6%, Pirelli più 5,5%, Unicredo più 5,2%, Buzzi Unicem più 4,90%, 4,5% guadagno di Automatica e di Mediobanca, il 4%, quello di Atlantia, il 3,5%, quello di UbiBanca il 3,2%, quello di Mediaset e di Italcementi, ma anche della Popolare di Milano il 3%. È rialzo del Monte dei Paschi e di Luxottica, perde Telecom meno 1, Mondadori meno 0,80, come Campari lo 0,70, perde Terna. Le borse e la borsa soprattutto di Milano, si diceva. Guido Maurino, Radio Colli Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque Guido, positivi tutti i mercati, finale domani, molte borse saranno chiuse, Milano sarà chiusa, per cui si va a chiudere, devo dire, non vendendo ma comprando, sì, prima della pausa pasquale chiaramente. Sì, oggi è stata una giornata molto positiva un po' su tutte le borse, in attesa della pausa pasquale, anche con scambi abbastanza elevati. Diciamo che a trainare gli acquisti sono state soprattutto le banche e le assicurazioni. Stavano già andando bene in mattinata in Europa, poi una serie di notizie hanno contribuito a un'ulteriore accelerazione. In particolare l'americana Wells Fargo, che ha annunciato di aver realizzato un utile netto di 3 miliardi di dollari nel primo trimestre, un risultato assolutamente a sorpresa, tanto è vero che il titolo Wells Fargo è andato molto, molto bene oggi in borsa e ha trascinato, diciamo, tutti i bancari. Ne hanno approfittato a Milano, come dicevi tu prima, Intesa San Paolo, che ha guadagnato il 6,83%, ne ha approfittato anche Unicredit, che ha guadagnato il 5,26% e Mediobanca il 4,18%. E infatti devo dire che di Wells Fargo abbiamo parlato, ma anche di sussidi della disoccupazione americani migliori delle attese. Nel frattempo vedo che scrivono altri ascoltatori, un agente di commercio del Vento che dice che anche lì, per la sua esperienza, gli ordini ordinativi stanno migliorando, saranno piccoli segnali, ma insomma meglio piccoli segnali positivi che piccoli segnali negativi, per dire la catalana. Andiamo avanti con i titoli. Autogrill partnership in Francia, bei giudizi positivi. E tra l'altro in Germania è arrivata la notizia, la ricordavamo prima, della prima nazionalizzazione di una banca tedesca dagli anni 30, ossia Hypo Real Estate, che verrà comprata di fatto dal governo dello Stato tedesco, dopo che già come garanzie e altre amenità era costata 102 miliardi di euro. Sì, appunto, Hypo Real Estate ha già guadagnato anche l'11,38% dopo che il governo tedesco ha annunciato di aver lanciato un'offerta pubblica d'acquisto, un'OPA sulla banca a 1,39 euro per azione. L'altro elemento è Pirelli Real Estate, molto forte oggi in borsa, più 11,5%. Ora sappiamo che le prospettive per il mercato immobiliare non sono bellissime. Che è successo, Puri Negri? È successo che ieri Puri Negri, che è stato diciamo l'anima della società per tanti anni, ha lasciato al suo posto, ci sarà un nuovo amministratore delegato, Giulio Malfatto. Come ha detto lo stesso Puri Negri, in fondo si chiude un ciclo con il suo abbandono. Il mercato oggi ha scommesso sul titolo, anche perché tutti si attendono novità sul futuro della società, che sta attraversando una fase molto delicata e ha appena annunciato che intende lanciare un aumento di capitale da 400 milioni di euro per ridurre il suo indebitamento. Aveva annunciato fra le altre cose anche in qualche modo una cessione di una quota dell'SGR immobiliare, intende anche procedere alla valorizzazione non performing loans. Insomma, è una fase in cui l'azienda si sta un po' ristrutturando. Sì, tra l'altro a questo proposito faccio notare come bene è andato anche il gruppo Coin, più 26%, Banca Generali più 25%, Pininfarina più 18%. E anche il Banco di Bilbao Vizcaya più 18, Deutsche Bank più 9,4, AXA più 9,4, insomma il Banco Santander più 8,5. Vanno bene oggi i bancari, lo ricordavi anche tu, a casa nostra oltre Intesa più 6,8, Unicredito più 5,2, dicevamo Mediobanca più 4,2, ma Monte dei Paschi più 3, insomma le abbiamo detto quasi tutti, Generali più 91%. non dovrei aver dimenticato nulla, Banco Popolare più 1,7 e poco altro. Di negativo invece c'è Telecom Italia, meno 1%. È strano, oggi l'intero settore telecomunicazione non ha conosciuto una bella giornata in Europa, no? No, infatti diciamo che Telecom Italia, che oggi ha perso lo 0,97%, si è mosso in linea con quello che hanno fatto più o meno tutti gli operatori del settore in Europa, da France Telecom a Deutsche Telekom, che hanno tutti avuto una giornata non particolarmente brillante. Alcuni trader sottolineano che le azioni delle TLC risentano in particolare del fatto che una banca d'affari abbia abbassato il giudizio sul settore a underweight. Altri analisti, con riferimento più specifico su Telecom Italia, sottolineano ancora la situazione in Argentina, dopo che l'antitrust ha inibito, certo, i consiglieri l'esercizio dei diritti su Telecom Argentina. Insomma, per tutta una serie di questioni, in parte esterne e in parte interne, oggi Telecom Italia non ha brillato. Grazie, buon Pasqua, oltre che buon fine settimana a te, Guido, e ai colleghi dell'agenzia di stampa del Sole 24 Ore, Radio Core. Adesso vorrei chiudere con una buona notizia, una bella notizia, prima di confermo a chi ce lo chiede domani, il mercato è chiuso, con una bella notizia, o perlomeno una nota di ottimismo, perché qualcuno di voi si ricorderà che abbiamo seguito due settimane fa, il 26-27 marzo, l'iniziativa di Panorama, del settimanale Panorama, c'è posto per te, 10.000 offerte di lavoro distribuite in diverse edizioni di Panorama, e iniziativa che si sarebbe dovuta concludere oggi, varie offerte di lavoro di qualunque genere. Ebbene, c'è una novità positiva ed ecco perché abbiamo richiamato oggi il direttore di Panorama, Maurizio Belpietro. Buonasera direttore. Buonasera a tutti voi. Allora, direttore, tu già ci avevi annunciato due settimane fa, se non ricordo male. Sì. L'iniziativa l'abbiamo vista in edicola. Mi sembra bene a questo punto, nel senso che l'iniziativa doveva concludersi oggi, invece cosa è successo? Invece è successo che ci siamo resi conto che le offerte di lavoro sono molte di più di quanto ci immaginassimo. Non si tratta a questo punto di 10.000 posti di lavoro offerti da grandi imprese, ne citavo già quando sono intervenuto da voi alcuni, ma li ricordo, si va dalla Decathlon alla Pricewaterhouse, Europe Assistance, alla Coca-Cola, cioè grandi nomi, ma appunto non si tratta di 10.000 posti di lavoro, ci siamo resi conto che ce ne sono molte altre di aziende che stanno assumendo, e quindi abbiamo deciso di proseguire l'iniziativa perché ne abbiamo trovate quasi il doppio, insomma, di posti di lavoro, quasi 20.000, e quindi ci sono posti di lavoro che magari non riusciranno a risolvere del tutto il problema occupazionale, la riduzione che in altre aziende c'è perché alcune sono in difficoltà, ma certo sono un numero importante, perché 20.000 cominciano a essere davvero una forte incremento dei livelli occupazionali. Fra l'altro si tratta di posti che insomma sono anche di una certa qualità, si va dagli ingegneri agli esperti di paghe, software, insomma sono posizioni anche di un certo prestigio e credo anche di un certo interesse. Ci stai dicendo che una volta che partite la vostra iniziativa avevate 10.000 posti di lavoro, vi hanno chiamati, ci sono aggiunte altre aziende? Esattamente, noi avevamo segnalato appunto, perché quando avevamo cominciato a fare questa inchiesta ci eravamo resi conto che c'erano delle aziende che assumevano, siamo andati avanti, siamo arrivati al numero di 10.000, e quindi questo abbiamo presentato ai nostri lettori divise in tre puntate, la terza appunto è quella che è andata in edicola proprio questa mattina, ma anziché chiudere ci siamo resi conto che ci arrivavano tantissime altre segnalazioni di imprese che erano intenzionate a espandersi, di grandi gruppi così, e allora abbiamo detto beh, qui forse è il caso di continuare questa iniziativa, di fornire ulteriori elementi, perché ci sono altre richieste. Come sapete, noi abbiamo fatto delle schede proprio molto, molto pratiche, perché ci sono il nome dell'azienda, i numeri di telefono, il nome del direttore del personale a cui indirizzare la propria richiesta, l'indirizzo mail, la descrizione del posto di lavoro, il luogo dove il lavoro è richiesto, perché ovviamente sono luoghi di lavoro lavoro richiesti un po' su tutte, in tutto il territorio nazionale, e quindi un servizio credo molto utile, e quindi abbiamo pensato di continuare. Se poi riusciremo ad aumentare ancora, ma insomma adesso siamo a una quota che a me pare davvero incredibile, non pensavo neppure io quando ho iniziato questa inchiesta che si potesse arrivare a un'offerta di 20.000 posti di lavoro con i nomi di aziende importanti. E quindi quanti altri, diciamo, numeri usciranno a questo punto, sul, visto che dovete terminare oggi, ma avete raddoppiato il numero di offerte? Dovevamo terminare oggi, invece proseguiremo, e quindi saranno almeno altre 3 puntate dedicate appunto a questi, a questo, posti di lavoro, e se per caso dovesse accadere che altre aziende ci chiamino per segnalarci le loro necessità, aggiungeremo ancora forse qualche altro numero. Beh, quasi quasi ci sarebbe da augurarsi che diventasse una rubrica fissa, diciamo. Sì, ci sarebbe da augurarsi, e anche a questo sto pensando, perché davvero se il mercato del lavoro è così dinamico, oggi ne parlavo proprio con un consulente che si occupa di queste cose, cioè, manca forse qualche volta la comunicazione, la circolarità, di essendo una comunicazione spicciola, magari che non fa notizie che un'azienda assume 100 persone o 50 persone, o fa notizie solo in ambienti molto ristretti, quindi poterlo diffondere sicuramente di grande, certo, di grande interesse, io credo. Bene, in bocca al lupo per, soprattutto per chi risponderà a queste offerte, e ci auguriamo appunto che il numero in generale continui a crescere. Grazie al direttore di Panorama, Maurizio Belpietro. Grazie a voi. E adesso finisce qui questa puntata di Focus Economia. Ricordo anche oggi poi lo speciale del 24 sul terremoto. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci sentiamo domani per una puntata particolare, appunto a borsa chiusa. Affronteremo due temi: le opportunità per le imprese che possono nascere nonostante la crisi o dalla crisi, da un lato, e il cosiddetto problema, insomma, dramma della fuga dei cervelli, come un paese come il nostro si sta impoverendo da anni ormai, delle migliori menti che forma, quindi i costi sono a carico nostro e poi le persone se ne vanno e ci fanno concorrenza dall'esterno. Comunque ne riparleremo domani.